Momento per momento, sai, sono solo per te che non mi parli mai. A stento sai che esisto, rimorsi, notti, sogni e guai. Lo sai, non voglio questo, io voglio solo te. Avvicinarmi alla linea dei tuoi sguardi, sento forte la paura di prenderti troppo tardi. Questa guerra, io sono una vittima e tu il carnefice. Piace scatenarti e ballare sul mio cadavere. Prima o poi mi apparterrai, a stento ti resisto, chissà se mai tu capirai la nostra vita adesso, perché ogni istante è un brivido, non appena ti sento addosso, rimorsi, notti, sogni e guai. Sai, non voglio questo, lo voglio solo te. Sento, sai che esisto, chissà se mai tu capirai la nostra vita adesso, perché ogni